mille elenco delle cose che ho scordato, della troppa poca attenzione che ti ho dato, del tuo sentirti sempre un po' dispersa, chiedendomi adesso il tempo che ti spetta. Dimmi solo cosa posso fare per poter capire qualcosa di cui mi possa accontentare, non solo un brivido di freddo lungo la schiena. Magari un inaspettato voglio far l'amore qui adesso. Questa è la mia, la tua casa, con il tetto non finito ma riparo. È la terra coi suoi frutti che ci appare, è la terra coi suoi frutti che ci appare. Fammi l'elenco delle cose che hai scordato, chiuse nella mente in un centimetro quadrato, non solo un brivido di freddo lungo la schiena. Magari un inaspettato voglio far l'amore qui adesso. Questa era la tua e la mia casa, con il tetto già finito che riparo. L'amore c'è finito lì per te, e l'amore c'è finito lì per te. Questa era la tua e la mia casa, con il tetto già finito che riparo. E l'amore c'è finito lì per te, e l'amore c'è finito lì per te. E l'amore c'è finito lì per te. Finito lì per te.